البلاد طردوا الأجداد صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو فلسطين عربية حرة أبية القدس إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو قالوا يا سلام أو يا سلام لا صفقة بدنا ولا استسلام قاومنا دفعنا حتى نرجعها صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو قالوا القانون دولي قانون العدل شفنا Buongiorno Palestina 162esima trasmissione su Radio Wombat. Mentre la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, donna e madre, abbraccia con calore la mamma di Alberto Trentin, liberato dalle carceri venezuelane dopo 423 giorni, nelle carceri israeliane è rinchiuso dal 2002 da 24 anni Marwan Barghouti, il più popolare leader politico palestinese, cosiddetto Nelson Mandela della Palestina. Rinchiuso in cella di isolamento, picchiato metodicamente, insultato, deriso, minacciato di morte dal ministro della sicurezza israeliano che lo ha visitato, si fa per dire, in carcere, nessun appello per la liberazione da parte del nostro governo, da parte del nostro ministro degli esteri, per il quale il diritto internazionale conta, ma fino a un certo punto. E sappiamo bene cosa ha voluto dire per il genocidio a Gaza. Il 3 e 4 febbraio sarà a Firenze l'ultimo figlio di Marwan Barghouti, Harab, in un evento che avrà luogo in una delle sedi istituzionali della Regione Toscana. Si stanno effettuando attività per la costituzione di un comitato fiorentino per la liberazione di Marwan Barghouti e per il riconoscimento della cittadinanza onoraria da parte di molti comuni fiorentini. Ma chi è Marwan Barghouti? Nel corso della trasmissione ascolterete una breve biografia. E mentre Marwan viene ingiustamente tenuto in carcere, la caccia alle streghe si sta scatenando anche in Italia. È di pochi giorni fa la sentenza a 5 anni e 6 mesi per Yaish Anan, cittadino palestinese, in un procedimento giudiziario basato su una documentazione israeliana che ha visto come testimone dell'accusa perfino un alto esponente del governo israeliano. Ascolterete a questo proposito la dichiarazione di Anan al processo e, dopo la sentenza, le dichiarazioni dell'avvocato difensore Flavio Rossi Albertini. L'imminenza della giornata della memoria, 27 gennaio, vede almeno due iniziative che potrebbero essere presentate con il titolo di Mai più per tutti. Una è quella del prossimo sabato, 24 gennaio, alle ore 15 in Piazza dei Ciompi a Firenze, dedicata ai genocidi commessi dagli europei e non solo alla memoria della Shoah. Ascolterete tra poco l'intervista a Gianni Monti della Casa dei Diritti dei Popoli. La seconda iniziativa è quella che si è tenuta lunedì scorso a Milano presso il Teatro dell'Elfo, teatro strapieno di persone che presentava un'iniziativa dal titolo A che punto è la notte? Iniziativa organizzata da parte del gruppo ebraico Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e Dallea, Laboratorio Ebraico Antirazzista. Ascolterete l'intervista a una delle organizzatrici, Eva Schwarzwald. La registrazione invece dell'evento la potrete trovare in podcast sul sito www.maiindifferenti.it. Troverete tutte le indicazioni sulla pagina del nostro blog della trasmissione di oggi. Ascolterete tutto questo dopo la consueta rassegna stampa a cura di Claudio. Sono Claudio. Vi parlo degli articoli che ci paiono di maggiore rilevanza pubblicati in italiano sui maggiori siti che li rilanciano, siti che si chiamano Zeitun, Invicta Palestina, Asso Pace Palestina, Amicizia Italo-Palestinese. Questo per dirne solamente alcuni. Comincio da Amicizia per via di un articolo che non è che sia più importante degli altri, però a Firenze fa notizia. Ecco il titolo. Il celebre direttore d'orchestra Zubin Mehta annulla i suoi impegni artistici in Israele. Ebreo nato in India, di cittadinanza israeliana, Zubin Mehta cita la sua opposizione alle politiche di Netanyahu e agli abusi israeliani nei confronti dei palestinesi a Gaza e nella Cisgiordania occupata. «Non posso separare la musica dalla politica», così ha detto Mehta. Zubin Mehta ha diretto le orchestre più prestigiose del mondo, tra cui la Filarmonica israeliana, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic. Soprattutto a Firenze ha diretto l'Orchestra del Maggio ed è personaggio a Firenze popolarissimo. Per cui la sua decisione costituisce uno scrollone all'inerzia di personaggi dell'establishment cittadino e in primo luogo la sindaca, che è ebrea anch'essa, ma troppo prudente, per usare un eufemismo, in tutto ciò che riguarda Gaza. Per restare sulle pubblicazioni curate da Amicizia, segnalo 1 milione di firme da raccogliere contro l'accordo tra Unione Europea e Israele. Decidano i cittadini europei. Raccolta in corso. Ancora su Amicizia. In Australia un celebre festival letterario viene annullato per le dimissioni della sua direttrice. Questa direttrice è ebrea, la quale si è dimessa per solidarietà verso un'autrice australiano-palestinese a cui era stato ritirato l'invito. Sempre in Australia un'altra attivista ebrea viene cacciata dalla veglia per Bondi Beach, dove c'è stata la strage, a Sydney, perché indossava una kefia. Passiamo al sito di Zeitun. Segnalo questo articolo questa è una nuova Nakba, come oltre 100 palestinesi della Cisgiordania hanno dovuto lasciare le proprie case in un solo giorno. Contadini sottoposti a costanti soprusi devono demolire le loro case e vendere le loro gregge. Una descrizione struggente del ripetersi di violenze e ingiustizie sulla popolazione palestinese. Così come un altro articolo ancora, sempre su Zeitun, mentre a Gaza il genocidio continua, la Cisgiordania è spinta verso un'altra Nakba. La distruzione dei campi profughi di Jenin e di Tul Karem da parte di Israele, che sta strappando le famiglie alle loro case e svuotando le comunità. Ancora su Zeitun, sono tornati in Cisgiordania i coloni che Israele aveva evacuato nel 2005 e Israele è pronto ad avviare la costruzione di una tangenziale nel cuore della Cisgiordania, cioè a realizzare un altro strumento di annessione. Ancora su Zeitun, il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede a Israele di porre fine al sistema di apartheid in Cisgiordania. Si tratta di un ulteriore rapporto delle Nazioni Unite che documenta l'intensificarsi della discriminazione israeliana nei confronti dei palestinesi. Ancora su Zeitun, un'associazione americana della stampa condanna Israele per il mantenimento del divieto di accesso a Gaza per i media. Si tratta dell'associazione no profit della stampa estera che si chiama Foreign Press Association. Cambiamo sito. Andiamo su Invicta Palestina. Titolo: Morire di freddo a Gaza, come il cielo sta uccidendo i bambini sfollati. Almeno 7 neonati sono morti quest'inverno a Gaza. I bambini sfollati muoiono congelati in tende bagnate, mentre il blocco israeliano impedisce gli aiuti essenziali. Ecco come Israele sta facendo morire di freddo i bambini di Gaza. Ora il sito di Assopace Palestina. Titolo: Israele ha già la pena di morte. È per i Gazawi che necessitano di cure mediche. L'angelo della morte ha continuato a scatenarsi a Gaza, lo dichiarano medici palestinesi ed internazionali. Altro titolo: a inizio l'era dell'Occidente senza morale. Questo si tratta del rilancio di un articolo di Antonio Scurati su Repubblica del 10 gennaio. Dice Scurati: non sfuggirà al tribunale della storia la foto di Trump e Netanyahu che festeggiano insieme il Capodanno. Annunciato il prossimo viaggio in Palestina. Viaggio dal 2 aprile all'11 aprile del 2026. Venite con noi in Palestina per un viaggio del corpo e dell'anima. Mai in questo momento i palestinesi hanno bisogno della nostra presenza solidale. Non possiamo lasciarli soli. Altro titolo: anche in prigione Marwan Barghouti continua ad esercitare una forte influenza sulla politica palestinese. Questo si tratta di un articolo in cui Arab Barghouti, figlio del leader palestinese Marwan, racconta la vita di suo padre nelle prigioni israeliane e la situazione di stallo in Cisgiordania dopo quasi due decenni senza elezioni. Il figlio di Barghouti sarà in Toscana ai primi di febbraio. Concludo così per oggi. Mi rendo conto di aver omesso articoli e titoli di sicuro interesse, ma li trovate comunque sui siti che ho citato. Buona lettura. Giorno di occupazione della Palestina sarà il primo giorno di pace. Questo disse Marwan Barghouti. Leggiamo adesso l'appello internazionale per la sua liberazione. Chiediamo alle istituzioni italiane, europee e internazionali e in primo luogo al governo italiano di attivarsi per l'immediata liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri e le prigioniere politiche palestinesi e di sostenere il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani in Palestina. Appello lanciato il 29 novembre del 2025 a Roma. Troverete tutte le indicazioni per le informazioni e le adesioni sul blog della trasmissione di oggi. Ma chi è Marwan Barghouti? Nato in Cisgiordania nel 1958, è entrato giovanissimo in Al-Fatah e ne è divenuto il leader alla morte di Yasser Arafat. Venne arrestato una prima volta a 18 anni nel 1978 e poi rilasciato. Nel 1987 nuovamente arrestato e esiliato in Giordania. Ritornerà in Palestina nel 1994 dopo la firma degli accordi di Oslo di cui è stato sostenitore. Nel 2002, prima di venire nuovamente arrestato, scrisse una lettera aperta al Washington Post, dichiarando che Al-Fatah non abbandona il diritto a difendere la terra palestinese e la lotta per la libertà del suo popolo, ma allo stesso tempo si riferisce agli israeliani come i nostri vicini e si schiera contro atti di violenza contro i civili israeliani. Marwan viene condannato definitivamente nel 2004, accusato di aver fondato le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, braccio armato di Al-Fatah, e condannato a 5 ergastoli e 40 anni di reclusione in un processo ritenuto parziale e non conforme al diritto internazionale dall'Unione Interparlamentare, così come dichiarò l'esperto legale dell'Unione Interparlamentare Simon Foreman. Come Nelson Mandela non ha mai riconosciuto la legittimità della Corte che lo ha giudicato in quanto forza occupante. Nel 2006 Marwan redige il documento dei prigionieri, un documento programmatico per la riconciliazione fra le diverse fazioni palestinesi condiviso da Fatah e Hamas, che propone la fine dell'occupazione israeliana e uno Stato palestinese indipendente e sovrano, accanto ad Israele, sulla base dell'accordo del 1967. Marwan Barghouti, riconosciuto dai palestinesi sia da Hamas che da Al-Fatah come formazioni politiche, come possibile unificatore del popolo palestinese sotto una visione ed un'agenda comune, gode di grande popolarità. Sinwar, il leader di Hamas ucciso da Israele a Gaza, ne aveva richiesto la liberazione negli scambi di prigionieri nel 2011, 2021 e 2024. Netanyahu, consapevole del valore politico della sua liberazione, si è sempre opposto. La necessità di consolidare una leadership palestinese capace di coalizzare i vari gruppi dietro un progetto politico unitario viene menzionata internamente da più parti e Marwan Barghouti è identificato come il possibile leader, spesso paragonato a Nelson Mandela, non solo per la sua ingiusta e prolungata incarcerazione, ma per la sua visione progressista e unitaria. Nelle recenti trattative in Egitto si è tornati a parlare di Marwan Barghouti, che non è il leader di Hamas e non lo è mai stato, ma è il leader di tutti i palestinesi e l'unico in grado di dialogare con l'autorità del suo popolo, con il governo israeliano, il mondo arabo e tutta la comunità internazionale. E come fu il caso per Nelson Mandela, la sua liberazione e la sua leadership potrebbero cambiare il corso della storia in Palestina e in Medio Oriente. Per Anan Yesh, che ha ascoltato il dispositivo della sentenza dal carcere, condannato per associazione con finalità di terrorismo internazionale, assolti invece Ali Rar e Monsud Agmosh, che erano presenti in aula nel tribunale aquilano. Si chiude così il processo ai tre palestinesi accusati di terrorismo internazionale con la sentenza di oggi, una sentenza in qualche modo di caratura mondiale sotto il profilo giuridico, perché è la prima volta che viene riconosciuto l'articolo 270 bis comma 3 dell'associazione con finalità di terrorismo internazionale a un cittadino palestinese. Il Palazzo di Giustizia oggi era blindato per l'udienza in corte d'assise. La caccia alle streghe in atto in Italia, con le accuse prima a Mohamed Shahin, poi ad Annun, si è accanita per ora contro Hanan Yaesh, condannato pochi giorni fa a 5 anni e 6 mesi. Eccone i capi di accusa. Hanani Haish è stato incriminato con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale, articolo 270 bis del codice penale, per presunto sostegno dall'estero alla resistenza palestinese in Cisgiordania, una resistenza riconosciuta come legittima dal diritto internazionale, Convenzione di Ginevra e risoluzioni ONU come la 38 del 2017. Nelle ultime udienze abbiamo assistito alla presenza di funzionari dello Stato sionista in sostegno dell'accusa, ovvero i tribunali italiani hanno chiamato responsabili di un genocidio a testimoniare contro chi lotta contro questo stesso genocidio, condannato dal Tribunale internazionale e dall'ONU. In una videoconferenza dal carcere di alta sicurezza di Melfi, Hanani Haish ha recentemente detto: «È successo in passato e mi sono trovato di fronte a testimoni israeliani, ma era in un tribunale militare israeliano, di fronte alla giustizia militare all'interno di Israele. Ma non mi aspettavo né attendevo di dovermi trovare ancora una volta ad ascoltare la testimonianza dell'esercito israeliano che occupa la nostra terra e che pratica la pulizia etnica contro il nostro popolo palestinese, e che il loro primo ministro, condannato dalla Corte internazionale come criminale di guerra, fosse un testimone contro di me in un tribunale italiano. Non so più se mi trovo in un tribunale israeliano e se vengo processato in base alla legge militare israeliana e se il pubblico ministero sia israeliano o lavori per conto di Israele. Sarà forse un processo militare israeliano? Israele ha davvero così tanta influenza in Italia?» Ascoltiamo ora le dichiarazioni dell'avvocato della difesa Rossi Albertini dopo la sentenza. Si farà appello alla sussistenza del reato di terrorismo internazionale, in qualche modo ci lascia assolutamente scontenti, perché noi ritenevamo che assolutamente non vi fosse alcuna prova in ordine a che i fatti di resistenza armata fossero indirizzati verso i coloni o verso i civili israeliani. E di questo siamo assolutamente persuasi e convinti, per cui anche per Hanani Haish certamente proporremo appello, qualsiasi sia il tenore della motivazioni della sentenza, perché siamo assolutamente convinti, avendo celebrato tutto il processo e avendolo riletto pagina per pagina, rigo per rigo, che non ci sia alcuna prova. Ci dirà che siamo contenti chiaramente che due degli imputati, che abbiamo sempre ritenuto assolutamente estranei a questa vicenda, siano stati assolti, anche perché pensavamo che questi due imputati fossero stati in realtà coinvolti in queste indagini solo per dimostrare che non vi fosse una sovrapposizione tra la richiesta di estradizione israeliana e la successiva iniziativa giudiziaria italiana, che altrimenti sarebbe risultata assolutamente sospetta in termini di collaborazione con lo Stato di Israele nella repressione della resistenza palestinese. Hanan doveva essere consegnato a Israele, la Corte di Appello dell'Aquila ha impedito che fosse consegnato proprio perché Israele è accusata di violare sistematicamente i diritti umani dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, e pertanto l'Italia abbia intrapreso un'autonoma azione, però sostanzialmente non perché Hanan Haish rappresentasse effettivamente un pericolo di terrorismo per il nostro paese o che vi fossero prove che avesse partecipato ad attività terroristica in Palestina, ma bensì appunto per fermare un soggetto che era ritenuto responsabile, un artefice, un sostenitore convinto della resistenza del suo popolo contro un'occupazione che dura dal 1967 nell'assoluta indifferenza di tutti i paesi, quantomeno quelli occidentali. Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée, enfants ciblés, mères en pleurs. De mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie, école, hôpitaux, maison, partout ruines, gravats, débris. écraser les chopes et la rue. Le marché, la chambre au bonheur, et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldat planqué dans ton blindé, puissant comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser. La giornata del 27 gennaio, giornata della memoria ormai vicina, a seguito del genocidio a Gaza, da due anni ormai sta suscitando discussioni e polemiche. A Firenze la giornata del 27 viene anticipata da un presidio in Piazza dei Ciompi il prossimo sabato 24. Ne parliamo con Gianni Monti del comitato organizzatore. Allora Gianni, qual è il significato di questa iniziativa? E di chi è prevista la partecipazione? Ma il significato è, diciamo, un qualche cosa che si lega allo spirito internazionalista della Casa dei diritti dei popoli, che ha proposto a tutta una serie di realtà di fare questa iniziativa. Il senso è, diciamo, basato su due considerazioni, una di carattere etico, cioè da un punto di vista proprio dell'etica, della morale, fare un presidio o una qualunque manifestazione, una qualunque iniziativa che è dedicata a tutti i popoli vittime di genocidio, di sterminio, di soprusi inenarrabili, è giusto. È eticamente giusto. Ecco, scusate, mi interrompo, ma è stato la giornata del 27 è stata considerata tradizionalmente da parte del conformismo ebraico una data esclusiva per la Shoah. Invece, innanzitutto, per quanto riguarda la giornata della memoria, bisogna dire che nei campi di sterminio oltre 6 milioni di ebrei, e quindi è giusto ricordarli, e sono stati anche sterminati centinaia di migliaia di Rom, per lo stesso motivo, perché considerati razza inferiore da sopprimere. E poi c'è anche un altro aspetto, che è quello di una pretesa che non è giusta, non è tollerabile, di avere praticamente il monopolio del riconoscimento dello sterminio subito, perché i popoli che hanno il diritto al ricordo di quello che hanno subito loro sono veramente tanti. E tu all'inizio mi avevi appunto chiesto quali sono, no, i ricordi, ma non solo i ricordi, anche si tratta anche di cose che avvengono tuttora, va bene, che noi abbiamo intenzione di menzionare, perché noi abbiamo contattato tutta una serie di realtà che operano in diversi settori, in diversi campi, e quindi ci sarà una partecipazione ampia e speriamo anche massiccia. Se vuoi aggiungere qualcosa alla tua domanda, altrimenti io procedo a parlare delle realtà che verranno. No, ecco, questo è senz'altro interessante, sapere quali sono le comunità e le rappresentanze che saranno invitate e che faranno parte. Dunque ci saranno, per esempio, ci sarà un'associazione di congolesi, giustamente, perché i congolesi sono stati massacrati in una maniera orrenda dal Belgio ai tempi del re Leopoldo II, di cui ancora in molte città belghe esistono i monumenti, quindi non hanno fatto i conti con questa cosa spaventosa che c'è stata. E ci sarà anche un intervento che parlerà degli indios dell'Amazzonia, e ci sarà un intervento che parlerà dei popoli andini, che hanno subito uno sterminio di centinaia di migliaia di esseri umani. Si parla di un qualche cosa che va tra i 50 milioni e i 100 milioni di morti, non tutti massacrati direttamente dagli spagnoli, ma anche massacrati e morti anche per la diffusione di malattie, in alcuni casi, anzi forse in molti casi anche diffuse volutamente proprio per sterminarli. si parlerà dei popoli nativi del Nord America, dei massacri fatti in Namibia dai tedeschi, in Etiopia dall'Italia fascista, degli armeni. Si parlerà anche della Shoah, giustamente, infatti ci sarà una ebrea che parlerà di questo, e si parlerà anche di uno sterminio, anzi direi di un genocidio in atto, che comincia a essere un po' dimenticato, che è quello dei palestinesi a Gaza. Ci sarà un intervento anche da parte del rappresentante del popolo palestinese, quindi la partecipazione è vasta e articolata, e ci saranno anche degli interventi programmati al riguardo. Quindi non si tratterà solamente di parlare di genocidio, ma suppongo anche di colonialismo e un certo accostamento di genocidio, colonialismo e responsabilità dell'Europa. Certamente, direi del mondo occidentale, del suprematismo occidentale, perché poi c'è un pezzo dell'Europa che è immigrato in America, soprattutto nell'America del Nord, nel Nord America, e quindi c'è un suprematismo occidentale di cui chiaramente sono parte importante gli Stati Uniti, ma non solo, e anche altri paesi europei, perché la Francia, il Regno Unito, perché no? Parliamo anche di Israele, che è parte integrante del suprematismo occidentale. Ecco, diciamo che, come tu hai detto all'inizio, l'Europa ha scaricato tutto sulla Germania, ma in realtà la Germania è un paese europeo, e non solo la Germania, però, che ha fatto uno sterminio in Europa, ma si tende a dimenticare gli stermini che altri paesi europei hanno fatto fuori dal continente europeo. Quelli vengono, diciamo, in gran parte sottaciuti. Ecco, quindi tu mi dici, si è evidenziata la Shoah in quanto è stato un genocidio compiuto da europei in Europa. Oggi oggi l'attenzione converge su quanto sta succedendo a Gaza, in particolare perché sono degli diciamo, non degli europei, ma degli israeliani di origine europea e con mentalità europea e appoggiati dall'Europa e armati dall'Europa, che stanno compiendo un genocidio a due passi da noi e sotto i nostri occhi e con la televisione che illustra tutto. È così? È proprio così. Di fatto noi assistiamo a dei comportamenti che sono di una ipocrisia stomachevole, veramente, da parte di gran parte, se non tutti, ma comunque gran parte dei governi europei. Diciamo una cosa anche, come avevo accennato prima, lo sterminio degli ebrei in Europa, quei 6 milioni, è dovuto principalmente dalla Germania nazista. No, non dimentichiamo che i paesi fascisti in Europa hanno aiutato la Germania. Io ne cito una: l'Ungheria fascista, che era alleata della Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, ha rastrellato a suo tempo, durante il conflitto mondiale, 800.000 ebrei, spedendoli ai campi di sterminio. Quindi diciamo che c'è tutto un mondo occidentale che continua ancora oggi a essere vigliaccamente complice. Lo è stato durante la Seconda Guerra Mondiale e lo è ancora oggi. Complice una volta nei confronti della Shoah, complice oggi dello sterminio dei palestinesi. Ecco, su questa esclusiva della Shoah che il conformismo ebraico ha sempre rivendicato, ci sono delle azioni da parte di una dissidenza ebraica abbastanza rilevanti. Cioè, oggi a Milano c'è una iniziativa in un teatro da parte di Mai Indifferenti, che è un gruppo ebraico dissidente, c'è stato l'articolo di Anna Foa che dal titolo Mai più per tutti, e insomma c'è chi si muove anche nel mondo ebraico insomma, che si rende conto che lo sterminio non è una cosa che riguarda solamente gli ebrei, ecco. Sì, certamente. E direi che queste iniziative da parte di queste persone, che sono delle persone degne della massima stima, anche perché possono trovarci anche in grande difficoltà nei loro comportamenti, ovviamente, no? Ecco, sono degne della massima stima e hanno anche un ruolo molto importante. E questo dimostra assolutamente quanto sia strumentale l'accusa di antisemitismo nei confronti di tutti coloro che criticano, e secondo me giustamente, lo Stato israeliano, quello che fa e come lo fa. Perché allora c'è da domandarsi, allora questi ebrei che sono così sensibili e lo dimostrano quotidianamente nei confronti della causa della giustizia, allora se sono antisemiti anche loro? Quelli del 19 sono antisemiti? Moniovadia è antisemita? L'ebrea che parlerà al nostro presidio è antisemita? È antisemita l'ex elicotterista israeliano che io conobbi tanti anni fa nei territori occupati, che era stato incarcerato perché si era rifiutato di prestare servizio nei territori occupati, e mi raccontò come era stato trattato. Praticamente per gli amici, i parenti, perfino i familiari, la fidanzata che lo aveva lasciato, trattato come un elbroso. Ecco, queste persone sono delle persone che hanno coraggio, dignità, fierezza, sono veramente delle belle persone e sono degne di ammirazione. Ecco, oggi c'è la notizia bomba, no? Che Zubin Mehta, direttore del Maggio Musicale Fiorentino, è persona e direttore d'orchestra celebre in tutto il mondo, ha dichiarato che lui in Israele non terrà più concerti, né in Israele né nei territori palestinesi occupati, e questo è veramente notevole. Ecco, ci vuoi ricordare allora la giornata del 24? È organizzata da... Allora, è organizzata dalla Casa dei Diritti dei Popoli, rete internazionalista, e da Firenze per la Palestina. E consisterà in un presidio che verrà fatto in Piazza dei Ciompi nel pomeriggio proprio di sabato. Quindi l'appuntamento è per le ore 15. Piazza dei Ciompi, che è una piazza centrale a Firenze, perfettamente adatta per un presidio di queste caratteristiche. Bene, allora alla giornata del 24. Grazie Gianni. Grazie a te Claudio. Ciao. Ogni giorno esco in strada, metto l'anima nelle mani e cammino. Ogni giorno esco in strada, metto l'anima nelle mani e cammino. Cammino per cercare campo, devo trasmettere una fotografia. Cammino per cercare scampo, ho ricevuto un ultimatum. Cammino per cercare cibo, cade dal cielo, non è la manna. Cammino per procurarmi acqua, cerco il miraggio di una cisterna. Cammino un bimbo tra le braccia, è leggero come una farfalla. Cammino sulla schiena un sacco, c'è il peso della mia tristezza. Cammino per andare a sud, piovono le bombe dell'Occidente. Cammino per ritornare a nord, non c'è più casa, non c'è più niente. Ogni giorno esco in strada, metto l'anima nelle mani e cammino. Ogni giorno esco in strada, metto l'anima nelle mani e cammino. Cammino, spingo in carrozzina la nonna anziana con la sua vergogna. Cammino e cerco un asinello che porti un letto dove non si sogna. Cammino con materassi e tende, vestiti sporchi, padelle vuote. cammino contro chi pretende che io sia strumento che non emette note. Cammino, non so come, ma cammino, nonostante mi manchino le forze. Cammino, non so dove, ma cammino, incontrerò salvezza oppure morte. Cammino 30 miglia di rovine. Per il secondo anno consecutivo, il gruppo Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e LEA, Laboratorio Ebraico Antirazzista, organizza, all'avvicinarsi del 27 gennaio, un'iniziativa distinta da quelle dell'UCEI, dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Quest'anno si è trattato di un evento al gremito Teatro Elfo di Milano. Ne parliamo nell'intervista di Claudio a Eva Schwarzwald. Si è svolta a Milano in questi giorni, presso il Teatro Elfo, con grande partecipazione di pubblico, un'iniziativa dal titolo A che punto è la notte?, organizzata da parte del gruppo ebraico Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e da parte di Laboratorio Ebraico Antirazzista. Ne parliamo con Eva Schwarzwald, che ne è una delle organizzatrici. Buongiorno Eva. Di questa iniziativa ci può dire quali sono state le finalità e quali le attese, i risultati? Buongiorno intanto a tutte e tutti. Sì, noi come l'anno scorso facemmo all'avvicinarsi del giorno della memoria, anche quest'anno ci siamo chiesti come avremmo potuto in qualche modo ricordare la Shoah, ma tenendo presente quello che sta succedendo in Medio Oriente. Quindi questo A che punto è la notte vuol dire questo buio che proviene dal Medio Oriente, quello che noi consideriamo veramente un precipizio dove tutti i valori etici, non solo degli umani ma anche dei valori ebraici, vengono veramente ormai schiacciati e dimenticati. Ci siamo chiesti come dar voce al nostro pensiero, al nostro dissenso e offrire anche degli elementi di conoscenza a persone che ancora poco ci conoscono, perché in Italia quando si avvicina il giorno della memoria ci sono le celebrazioni delle istituzioni ebraiche che da 2 anni ci chiedono di dimenticarci un po' quello che sta succedendo in Medio Oriente. Ecco, quello viene egemonizzata questa giornata e in qualche maniera di memoria si parla solamente a proposito della Shoah, però la memoria deve essere un po' memoria di tutti. Adesso ho presente un articolo di Anna Foa che dice memoria mai più per tutti, ecco. Certo, questo qui è proprio il concetto, infatti ci si dimentica di quello che succede ai palestinesi, di quello che è successo, della Nakba, e quindi per noi è importante invece anche richiamare l'attenzione proprio delle scuole, degli studenti, infatti c'erano anche diversi liceali ieri, per noi questo è stato importante e interessante, diversi docenti che sono abituati a trattare il giorno della memoria e della Shoah in un modo molto rigido, senza immettere l'oggi, senza immettere dei riferimenti a quello che accade, che è accaduto storicamente. Ed è stato importante che ieri fossero proprio i più giovani della rete LEA, Laboratorio Ebraico Antirazzista, a fare un intervento di gruppo portando degli elementi più politici, di politica attuale, perché sta a loro in qualche modo portare avanti questo discorso, non possono essere solo i novantenni che tra un po' i meglio scompariranno tutti, quindi importante è fare dei riferimenti proprio all'oggi. Ecco, c'è una presa di posizione diciamo differente dall'ufficialità ebraica, dalle posizioni dell'UCEI, da parte di elementi importanti della diaspora anche in Italia ora? Certo, c'è da tempo, non solo noi, la nostra rete nacque dopo il 7 ottobre 2023, proprio con delle firme e con un appello che si diciamo ribellava a certe indicazioni che nascevano dall'UCEI di non fare riferimenti nel giorno della memoria 2024 a quello che stava facendo Israele ai palestinesi. Quindi noi siamo nati proprio con firme prestigiose, diciamo, del mondo ebraico per esprimere il nostro dissenso. Dissenso che va avanti con raccolte firme di giornalisti, docenti universitari, appunto la FOA che tu hai citato e così via. Proprio perché invece il mondo istituzionale ebraico, che è rappresentato nelle comunità più grosse, Milano-Roma, da personaggi vicini a Fratelli d'Italia e vicini al fascismo, diciamolo, non ci rappresentano, e noi vogliamo far sapere al mondo che spesso fa delle equazioni sbagliate, cioè Israele uguali ebrei, quindi siamo tutti colpevoli ancora oggi in qualche modo, oggi in maniera diversa. E invece le istituzioni ebraiche che ci tacciano di antisemitismo. Questo in un momento in cui si parla di nuovi DDL del Rio che riconoscono le dichiarazioni di secreti, diciamo, degli elementi per cui se critichi Israele sei antisemita, cioè bisogna che qualcuno faccia capire al mondo che ci sono altre visioni, e ci sono. Ecco, in Italia attualmente si sta diffondendo un clima da caccia alle streghe, un po' una imitazione di quello che è successo nel Regno Unito e in Germania per quanto riguarda l'islamofobia. Ecco, si è accennato anche a questo ieri nell'iniziativa? Ma diciamo che meno, nel senso che ieri il focus era proprio un po' di più sul mondo ebraico. Infatti, mentre in altri incontri c'erano anche delle presenze palestinesi, a parte che ieri c'era molta influenza in giro a Milano, quindi Kader Tamimi, presidente della comunità, non ha potuto venire perché non stava bene. Così, insomma, non è facile portare persone che abbiano voglia di discutere in un contesto dove ieri prevaleva comunque la presenza ebraica, indubbiamente. Quindi il nostro focus era un po' appunto sulla memoria, sull'esistenza di movimenti di dissenso interni. Per porgere proprio una modalità diversa di affrontare il giorno della memoria. Ecco, ci sono stati questi movimenti di dissenso, hanno avuto dei momenti anche di convergenza. Io so che qui a Firenze, da cui sto parlando, ci sono state più di un'iniziativa, ospitate tra l'altro dalla comunità ebraica di Firenze. Sì, Dialogo Ebraico è un altro, diciamo, spezzone secondo me, questo è il mio personale parere, un po' meno dissenziente, che però ha cercato di mettere insieme voci diverse. Infatti anche noi eravamo presenti e abbiamo discusso. Sarebbe bello anche mettersi tutti insieme invece che spezzettarsi, ma si sa che con la famosa barzelletta, due ebrei, tre pareri, se non cinque, è proprio così, quindi non è semplice. Però anche ieri c'è stato un rappresentante di quest'altra rete Dialogo Ebraico che ha voluto essere presente e fare un breve intervento. Io penso che ci sia una forte differenza, perché ci sono tanti modi di sentirsi ebrei vicini ai valori che secondo me esistono, che non sono certo quelli di Netanyahu e dei suoi ministri, però bisogna che la gente anche impari a distinguere, che io non sono israeliana e non ho votato Netanyahu, non mi identifico con lui e non voglio che l'unione delle comunità a Milano si è rappresentata da un signore che è amico di La Russa, quindi questo va un po' detto, cioè non mi puoi accusare tu Uccei di essere antisemita se stai facendo un decreto legge che non ci sta bene, che fai che voti delle rappresentanze del mondo ebraico che, dalle quali io mi sento lontanissima, quelli che hanno fatto le leggi razziali, che hanno perseguitato i miei familiari, per esempio. Ecco, all'iniziativa di ieri a Milano seguiranno altre iniziative? Avete un programma di attività? Ma guarda, noi siamo nati come rete di persone che volevano esprimere dei pensieri, poi un paio di volte all'anno magari facciamo delle azioni, degli interventi e poi andiamo alle manifestazioni, abbiamo uno striscione eccetera. Organizzare anche una cosa così piccola come abbiamo fatto ieri, ma con dei relatori che vengono da fuori, la preparazione di alcuni video con i sottotitoli in italiano, cosa che abbiamo fatto noi, e cioè, non è una cosa proprio, noi non siamo un'associazione, siamo un gruppo di persone, alcune diciamo anche siamo piuttosto âgé, si direbbe, e quindi ognuno ha la sua vita e le sue iniziative, chi fa più politica, chi ne fa meno, chi ha ancora attività lavorative, quindi certo, ogni tanto decidiamo di fare un'azione e vediamo che il successo aumenta, nel senso che abbiamo iniziato in una piccola sala con 100 persone, ieri eravamo al Teatro Elfo Puccini, 500 posti e la sala era piena. Quindi è chiaro che c'è anche un maggior interesse a capire in questo momento. Quello che sarebbe importante è che l'interesse fosse sollecitato negli studenti, nelle scuole, che gli insegnanti percepissero che c'è un modo altro di fare questo, e il gruppo dei LEA, dei giovani che però ovviamente lavorano, quindi anche loro hanno delle vite complesse, sono loro che possono spezzare un po' le modalità celebrative del mondo ebraico rispetto alla Shoah, al giorno della memoria. Ecco, questo che mi dici sul mondo della scuola è avvertito anche dalle cosiddette controparti, cioè da parte del Lucei. Hanno predisposto queste schede sull'ebraismo insieme alla CEI, alla Conferenza Episcopale Italiana, ma che da un'occhiata direi che sono un po' difficili da leggere, ma soprattutto puntano sugli insegnanti di religione cattolica per una propaganda pro Israele. Insomma, questo è quello un po' che si evince dalla lettura di queste schede. Io non le ho lette, non sono preparata, ne sai tu più di me, anzi sarà interessante leggerle, ma francamente non le ho lette. Però quello è lo spirito è quello di sostegno a Israele, perché abbiamo subito l'oppressione, ma che nessuno di noi nega, figurati, tutti noi abbiamo vicende familiari drammatiche, quindi non è questo il punto. Il punto è anche questo: perché l'insegnante di religione? Cioè, ma perché l'insegnante di religione? Parliamo laicamente, perché essere ebrei non vuol mica dire che siamo tutti religiosi, non lo siamo affatto, molti di noi non lo sono. Certo, bene. Allora ci attendiamo prossimi annunci e buon lavoro per il futuro, e complimenti per i successi che mi pare che siano successi, diciamo interesse che interesse è crescente suscitato nei confronti vostri. Bene, poi ci sarà la registrazione dell'incontro di ieri, che si potrà trovare sia sulla pagina Facebook di Mai Indifferenti che nel sito che noi abbiamo, maiindifferenti.it, e a giorni insomma ci sarà la possibilità di rivedere e riascoltare quello che ci siamo detti ieri. Grazie.